91. Pappardelle alla retina. Non ve le do come piatto fine, ma per famiglia può andare. Prendete un'anatra domestica, mettetela in cacciaruola con un pezzetto di burro, conditela con sale e pepe e quando avrà preso colore aggiungete un battuto tritato ben fine di prosciutto, cipolla, sedano e carota. Lasciatelo struggere sotto l'anatra, rivoltandola spesso. Poi levate via buona parte dell'unto, come cosa indigesta, e tirate la cottura con brodo ed acqua versata poco alla volta, ma in quantità tale che vi resti il sugo per condire la minestra di pappardelle. Procuratevi un pezzetto di milza di vitella o di manzo, apritela e raschiatene col coltello la parte interna per metterla a bollire sotto l'anatra. Quando questa sarà cotta e servirà per ingrediente al sugo, a cui non sarà male aggiungere anche pomodoro e odore di noce moscata. Tirate una sfoglia di tutte uova, grossetta come quella delle tagliatelle, e con la rotellina smerlata tagliate le strisce più larghe di un dito. Cuocetele poco e conditele col detto sugo, col fegatino dell'anatra a pezzi, parmigiano e un poco di burro se occorre. Queste pappardelle servono per minestra e l'anatra per secondo piatto.